Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Non so se vi sia mai capitato, probabilmente al mattino è più facile pensare, magari dopo che vi siete guardati allo specchio, che il tempo fa preferenze. Su alcuni ha un passo leggero, su altri invece lascia segni molto visibili. Quanti anni ci sentiamo addosso? Quanti anni dimostriamo? Sì, perché non c'è una sola età, ma due età: l'età anagrafica e l'età biologica. Ed è questa che vale, quella che vale di più, perché è sempre correlata con tante modificazioni funzionali dell'organismo. Delle nostre due età parliamo oggi con il professor Piero Barbanti, che è tornato a trovarci, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma e presidente dell'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulla Cefalea. Professor Barbanti, bentornato. Bentrovata, buongiorno. Allora, età anagrafica ed età biologica sono due indicatori diversi dell'invecchiamento. Sì, cominciamo a invecchiare presto, ma maturiamo però lentamente con il cervello. Pensiamo che la specie umana è una delle poche specie animali in cui lo sviluppo del cervello avviene sostanzialmente dopo la nascita. Impieghiamo un 70esimo, un 80esimo della nostra vita per imparare a camminare. E circa impariamo a parlare bene intorno ai 2-3 anni, quindi è uno sviluppo che procede molto lentamente. Il cervello incomincia in realtà a invecchiare presto, però attenzione, quello che gli studi hanno dimostrato, che il problema non è rappresentato tanto dalle morti dei neuroni. I neuroni sì, in parte calano, ma più che altro si spettinano, cioè i loro dendriti, che sono quella specie di capelli che loro hanno per connettersi l'uno con l'altro, perdono le connessioni, come se si staccassero le ventose. Questo fenomeno è parzialmente reversibile con alcuni particolari stimoli, di cui magari potremo anche parlare. Certo, questi ci piacciono molto, perché se questi neuroni sono un po' scarmigliati, vogliamo ripettinarli. Sì, però pensiamo che c'è un elemento di consolazione. Se è vero che piuttosto precocemente l'apparato neurologico insomma perde un po' lo smalto, diciamolo chiaramente, la memoria che ha un ventenne, il quarantenne non ce l'ha, o addirittura la memoria di un bambino di 5-6 anni che ricorda le singole battute di un film, già a 20 anni l'hai perso. C'è da dire che invece l'intelligenza ha il suo acme verso i 40 anni, quindi c'è un po' uno sfalsamento. Bello. Ed è una bella consolazione per tutti noi. Ma certo. Professor Barbanti, che cosa possiamo fare? L'ippocampo, che è questa zona tanto importante del nostro cervello perché è il forziere dei ricordi, e tra l'altro è un forziere dei ricordi che partecipa ai giochi dei circuiti dell'emozione, quindi insomma è anche facilmente perturbabile, è una specie di nursery, cioè contiene dei baby neuroni. Questo noi non lo sapevamo tanti anni fa, credevamo che il neurone non potesse essere replicato. In realtà questa nursery di neuroni, che è l'ippocampo, dietro particolari stimoli fa diventare grandi celli i neuroni baby, si chiama neuronogenesi, e gli stimoli in parte sono difficili da ottenere, pensiamo il BDNF, l'NGF, i fattori trofici. Però, per esempio, l'attività fisica può aiutare a differenziare i neuroni baby e i neuroni adulti, e nei soggetti per esempio che hanno disturbi dell'umore, l'uso degli antidepressivi, tanto ingiustamente vituperati da tanti, possono aiutare, in chi ne abbia bisogno ovviamente, i neuroni baby a diventare neuroni adulti, e cioè a rimpolpare le file della schiera di cellule nervose nella parte più critica del nostro cervello. Quindi, come a dire, professor Barbanti, diamoci una mossa. E diamoci una mossa e guardiamo anche come ci muoviamo. Allora, pensiamo a un ragazzino di 14 anni, non può essere ancora un atleta, ma non perché non ha ancora i muscoli così formati, perché la sua coordinazione non è ancora ottimale, è genere nello sport tra i 20 e i 25 anni che raggiunge l'acme, esattamente quando il cervello ha raggiunto il massimo del suo splendore. Il sistema nervoso finisce proprio tutti i lavori, smonta i ponteggi all'età di 24-25 anni. Attenzione, guardiamo allora il movimento come va nel corso della vita, perché incominciare a cadere o accorciare lo schema del passo, la larghezza, l'ampiezza del passo, sono cose abbastanza consuete nella terza età. Però ci sono persone che questa cosa non ce l'hanno, anzi ci stupiscono, diciamo, ma guarda quello lì, che passo che ha quell'ottantenne, anzi adesso diciamo il novantenne, perché l'ottantenne è giovane per definizione. È uno specchio molto fedele del funzionamento di tutti i circuiti cerebrali, per esempio di questo grande coreografo che è il sistema extrapiramidale, che proprio perché è distribuito in tante parti del cervello è facilmente vulnerabile da piccole lacune, da piccole ischemie, da piccoli eventi degenerativi. Professor Barbanti, ritorniamo sempre al concetto dello stile di vita, no? Lo stile di vita può fare la differenza, può aiutarci a organizzare un buon invecchiamento, a predisporci per un buon invecchiamento. Una buona regola generale è tenere bassi i livelli di infiammazione. I nostri vecchi dicevano: ma la VES è bassa, allora sto bene. Avevano ragione. Cos'è che tiene basso i livelli di infiammazione? Lo so, sono parole trite e ritrite. Lo stile di vita sano, e cioè un'alimentazione con 5 porzioni al giorno di roba colorata o verde o di vari colori, cioè di vegetali o frutta, una attività fisica costante, non snervante, perché il super allenamento attiva invece l'infiammazione, e la venerazione del sonno, costi quel che costi. Ma poi anche la felicità. Forse non tutti sanno che il 20 marzo è la giornata che le Nazioni Unite hanno definito la giornata per il diritto alla felicità. Il pensare positivo, la psicologia positiva su cui tanto hanno puntato gli americani, ha un fondamento di verità, nel senso che è neurobiologicamente vantaggioso. In una frase, prendersi cura di sé, e lo sto dicendo un po' di tempo, cercare di coltivare l'ozio. L'ozio come momento in cui non fai niente e ti ascolti. Noi abbiamo molta ispirazione dentro di noi e la ascoltiamo molto poco. La nostra cecità verso il mondo, che è anche cecità verso noi stessi, noi non ci vediamo in realtà, poche volte ci rendiamo conto di essere stressati, poche volte ci rendiamo conto di essere anche un po' incattiviti, deriva dall'assurdità. Cioè dal fatto di non essere più in una condizione di ascolto. Noi, ed è vero, procediamo in un mondo di immagini, e la radio è meravigliosa perché le immagini non te le dà, te le fa fare, ascoltare, a volte stimolare ad esempio anche un audiolibro, se uno ha dei problemi di vista, consente di creare immagini, consente quindi di creare speranza, di creare felicità e di creare attività nervosa positiva. Professor Barbanti, soprattutto oggi, in questo momento così complicato, difficile, in cui siamo impauriti, ci sentiamo confusi, vediamo intorno a noi tanti rischi, tanti pericoli, ecco, provare non solamente per invecchiare bene, ma per garantirci ogni giorno una buona quotidianità. Ma cercare di fare come i vecchi, cioè diventare mentalmente presbiti, allontanarsi dal problema miope che noi guardiamo da vicino e che non possiamo eludere, va di bene la mascherina, il distanziamento, i rischi, le rianimazioni, ma guardare il senso della nostra esistenza e coltivare la speranza. Io sono un neurologo, non sono uno psicoterapeuta, ma la speranza, che in parte è attivamente coltivabile, rinforza le aree del cervello che evitano l'attivazione dell'amigdala, e l'amigdala è il pulsante della paura. Quindi guardare con filosofia, che poi vuol dire guardare un po' da lontano e meno immedesimandoci in quello che facciamo. Noi stiamo ormai diventando il nostro lavoro, noi siamo delle persone, noi siamo una comunità, il senso della solidarietà, il senso del sociale ci aiutano in questo. questa ondata è evidente che passerà, perché l'uomo ha superato le malattie di ogni genere, quasi tutte le malattie infettive. Professore, grazie per essere stato con noi, per questa ricarica, mi piace. Grazie. Buona giornata. Sarà una buona giornata. Grazie a voi, grazie al professor Barbanti. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.